senza una bimba di perla nel lacrima sangue che di una vita langue danza tra gnugne e tabacco e tequila in blu, stanza rock and roll a digiuno stravolta eppure effimera farfalla balla, balla, balla, tirando un grammo di vita loca, poi si sfoca, la vita bruta alle spalle arresa alla sua dolce, dolce, dolce attesa. De vida mai veduta, vissuta, piaciuta, balla su scarpette di vento, di bloody rainbow sognando, scolpendo, dipingendo un miro di sangue perduto da lacrima calcuta la vita di tutti i bimbi che corrono tarantelle al bosco e giù tempesta, infinito di dono di Don Giovanni tra ricamo e drammi, sotto ponti, brindisi per lei, guerre di sognanti, voli agli Emirei con lei, mentre lei dolce coccola in mago tra sangue e spago di un carillon di ghiaccio, ripensando bimbi magici in polveri rosse. Sniff sniff, tira e spara nel suo giro di danza, fove dolce lacrima calcuta di una vita lutta brutta, danza e la descrive penna di mago, drago, pirata di lei per versi, fischietta segreta, chanson, carillon in un blu d'emotion, candido sangue perla, danza una bambola di perla nel lacrima sangue che di sua vita langue, danza tra gnugni e tabacco, tequila in blu, stanza rock and roll a digiuno stravolta eppure effimera, farfalla balla, balla, balla, tirando un grammo di vita loca, poi si sfoca da vita brutta alle spalle arresa alla sua dolce, dolce attesa. De vita mai veduta, vissuta, piaciuta, balla su scarpette di vento, di bloody rainbow, sognando, scolpendo, dipingendo un miro di sangue perduto, de lacrima calcuta la vita di tutti i bimbi che corrono tarantella il bosco tutti i giorni e giù tempesta, infinito di dono di Don Giovanni. Tra ricami e drammi cucinava un sussulto ispirato di Gandhi. Sotto ponti brindisi per lei, guerre di sognanti, voglia agli Emirei con lei, mentre lei, mentre lei, mentre lei, dolce coccola in mago tra sangue e spago di un carillon di ghiaccio, ripensando bimbi magici in polveri rosse. Sniff sniff, tira e spara nel suo giro di danza, fove dolce lacrima calcutta di una vita lutta brutta, danza e la descrive penna di mago, drago, pirata di lei per versi e versetti di mago, fischietta segreta, carillon, chanson in un blu de motion, candido sangue perla e vita e merda di drammi e grammi, sotto ponti brindisi per lei, brindisi per lei, brindisi per lei e la sua dolce attesa, e la sua dolce attesa. Danza una bambola di perla.